Eccoci qui, ben trovati per parlare di quello che sarà il secondo appuntamento di Hertz da quando questa collaborazione ha preso il via. Ebbene, questa volta la serata di Radio Città Futura ospiterà, o meglio, riospiterà, non so se si può dire, una DJ che arriva direttamente da uno dei club più importanti del mondo, del pianeta, già il Ministry of Sound di Londra, che è appunto uno dei locali che ha fatto la storia della musica da ballo nella capitale, che chiaramente è il centro nevralgico di quelli che sono i suoni che poi si sviluppano ad Hertz. Ci sarà DJ Paulette, che è una delle DJ al femminile più importanti nel mondo ed è l'unica resident female del Ministry of Sound. Un personaggio molto interessante, una giornalista, una produttrice, lavora anche in studio ed è celebre in Inghilterra per le collaborazioni con dei personaggi del calibro di Jazz Peterson, di Terry Callier, di Carl Craig, 4Hero, insomma, ha collaborato anche con gli Incognito, ha fatto la presentatrice per MTV ed è diventata famosissima per un suo set 24 Hours DJ set, cioè un suo set registrato all'Olympic Stadium di Montreal davanti a 100.000 persone, nel quale lei ha suonato per 24 ore. Quindi pensate un po' che personaggio. Una conduttrice radiofonica, insomma, un artista all'ampio raggio che rappresenta perfettamente quello che è l'universo femminile nel mondo della console. Sarà quindi un party interamente dedicato al potere della donna in console. Perché ci sarà anche Flavia Lazzarini che aprirà la serata. Flavia Lazzarini è una delle DJ italiane più conosciute sia in Italia che in Europa. Lei ha tantissime collaborazioni al suo attivo. Anche lei è una giornalista, è la responsabile del sito ufficiale di Rai News 24 ed è anche la DJ che ha preso parte a delle serie televisive molto interessanti, che erano quelle di Sex and the City. E poi un progetto musicale, il suo Between Lounge and Boss, che è stato presentato ad Enzimi nello scorso 2003. Quindi, insomma, la sua sarà un'apertura altrettanto interessante. Una serata quindi dedicata alle donne, una serata dedicata a quelli che sono i suoni della house music, poi in particolare, diciamo, perché Paulette, come resident del Ministry of Sound, riesce poi a spaziare tantissimo sul genere house, che comunque diventa una performance molto interessante, proprio perché poi lei è anche un personaggio dalla solarità incredibile. Quindi, quando è già venuta a novembre ad Hertz, ha già seminato tantissimi consensi. Quindi, vi aspettiamo perché il party sarà sicuramente molto interessante. Ciao a tutti.